immagine che emerge, sintetizzando con tutte le approssimazioni di una sintesi, potremmo dire che si tratta di ragazze e di bambine resilienti, combattive in territori insicuri. Questi territori insicuri non sono solo i territori fisici, quartieri a rischio, dove ci sono maggiori rischi e più povertà, chiaramente, sia economiche, sia educative e di opportunità, ma anche sono territori simbolici, sono le difficoltà, gli ostacoli che le ragazze, anche le ragazze che vivono l'illusione, la chiamiamo, della piena parità, incontrano. E noi le abbiamo seguite nei loro percorsi di studio, come si vedeva anche nell'Atlante e nel video in apertura. E loro sono molto brave anche nei percorsi scolastici, abbandonano meno, vediamo anche rispetto ai coetanei in Italia c'è una dispersione scolastica altissima, al 13,5% con dei grandi divari territoriali, però le ragazze abbandonano meno, finiscono prima gli studi, si laureano in numero più numeroso, persino il numero di ragazze che si laurea nelle cosiddette materie STEM, quindi nelle materie scientifiche, un tema che so che anche la ministra Bonetti sta molto a cuore, sì. È comunque una percentuale bassa, il 16%, ma comunque superiore alla media europea che è di attorno al 12,5%. Quindi diciamo hanno un percorso felice, se vogliamo, di studi, di realizzazione, poi succede qualcosa, questo vantaggio rispetto ai maschi si capovolge in uno svantaggio e qui vediamo appunto il numero di chi non cerca lavoro, non studia, non è impegnato in alcun percorso di formazione, sono le cosiddette NEET, dove invece le ragazze sono in numero superiore, 1 su 4 rispetto ai maschi, 1 su 5. Allora l'Atlante cerca di capire cosa succede, cosa è successo, sia lungo il percorso ma anche di crescita, ma anche cerca di guardare avanti, cioè qual è la condizione quindi delle ragazze, delle donne, delle giovani donne, e quindi qui abbiamo tutti gli ostacoli del mercato del lavoro, abbiamo la difficoltà di conciliare i tempi di cura, la famiglia e il lavoro, la carenza di servizi, la carenza di scuole a tempo pieno e quindi tutti ostacoli che costringono. Ecco, questi appunto sono gli ostacoli che voi avete visto e da quello che lei dice, dai numeri che abbiamo potuto vedere prima, ci sembra di capire che il nostro paese è ancora un po' indietro proprio da un punto di vista culturale. Questa arretratezza voi la riscontrate in queste aree di difficoltà che avete visto o è proprio un'arretratezza generale del paese in cui comunque la condizione e le differenze di genere sono ancora forti? Ma io direi che è generale, è chiaro che nelle aree povere, deprivate, difficili si scontano condizioni difficili per tutte e quindi a maggior ragione per le ragazze, per le bambine, pesano di più gli stereotipi, le condizioni familiari, la povertà. Però sicuramente pesano stereotipi per tutte le ragazze, non solo. Pensiamo anche ai percorsi scolastici, ci sono moltissimi studi Invalsi, Miur, eccetera, che ci mostrano come ad esempio nelle diverse specializzazioni nelle materie italiano, matematica, si parte assieme e poi in qualche modo si crea un divario, le ragazze più brave in italiano e i bambini in matematica. È in realtà però un percorso che dove influiscono anche lì una serie di stereotipi di spinte a specializzarsi, e questo però crea dei solchi formativi, un'autosegregazione, una segregazione formativa, per cui alla fine vediamo che appunto il 16% dei ragazzi che vanno l'università nelle materie STEM sono comunque la metà dei ragazzi, che sono ben 37%, se ricordo bene. Quindi ci sono ci sono numerosi studi che mostrano come ormai anche alcune qualità che esprimono le ragazze a scuola, cioè la diligenza, un certo anche adeguarsi alle richieste dell'istituto scolastico, non mettono però in valore quello che è l'elemento fondamentale. Chiara Serraceno, quando l'abbiamo intervistata, ci diceva che la prima cosa che servirebbe alle ragazze è darsi valore, quindi è comunicare a loro su vali, e quindi questo è un punto decisivo.